Ogni domenica sulle nostre frequenze alle 11, ma poi anche in altre radio, potete ascoltare Psicoradio, la radio della mente, un progetto che compie 15 anni e ne parliamo proprio oggi, che è l'anniversario dell'approvazione della legge Basaglia, la legge che ha chiuso o aperto, a seconda dei punti di vista, i manicomi. Psicoradio è una realtà che si occupa di salute mentale, ne parliamo con la direttrice Cristina Lasagni, che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Percorrere 15 anni di storia forse è anche un po' lungo, però se dovessi sintetizzare che cos'è Psicoradio, cosa ci diresti? Guarda, Psicoradio è un luogo dove si riflette su delle cose che si danno troppe volte per scontate, come cosa vuol dire star bene e star male, chi sono le persone che hanno una sofferenza psichica e che possono averla, e cioè tutti noi possiamo avere un momento di sofferenza psichica, poi ci sono persone che invece ce l'hanno in modo più pesante o più continuativo, ma questa è la prima cosa che Psicoradio vuole raccontare a tutti, e cioè che non c'è un muro, non sono due razze diverse le persone con un disturbo psichico e quelle che non hanno una diagnosi, ecco, ma non lo sono davvero. E credo che la pandemia forse ha dato un grande insegnamento da questo punto di vista, perché durante la pandemia tante persone si sono sentite male, hanno sperimentato ansia, angoscia. Basta vedere come è aumentata la pubblicità degli ansiolitici in televisione, è un metro molto chiaro per capire che tanti hanno sperimentato sensazioni e disturbi diversi, nuovi. E allora questa cosa ci dice una cosa veramente che troppe volte viene dimenticata: non è una razza diversa quella delle persone con un disturbo psichico. Siamo noi, o esseri umani, lo dice un grandissimo psicanalista, psichiatra che Psicoradio ha conosciuto, che si chiama Eugenio Borgna, e lui dice che se lo psichiatra e la persona in cura, il paziente, non si incontrano nella umana condizione, che è quella del dolore, non ci sarà possibilità di guarigione, nel senso che non ci sarà possibilità di incontro vero. È una condizione di tutti, quelle del dolore, alcune persone ne soffrono di più. Questo è stato secondo me il grande punto di partenza di Psicoradio, e poi abbiamo deciso di fare delle campagne, ma soprattutto di dare la voce a persone che di solito non si esprimono rispetto, per esempio, ai temi che invece sono così importanti per la loro vita, tipo la loro condizione. Tu hai parlato appunto di questo muro che non esiste, questo muro che Psicoradio abbatte, anche perché nella redazione ci sono persone che sono seguite dal, certo, Dipartimento di Salute Mentale e anche dei, sì, giornalisti, e non, sì, c'è una differenziazione, quindi anche il tema del rimuovere lo stigma è molto importante. C'è una differenziazione di compiti, che questo nella società tutti abbiamo dei compiti, ciascuno ha un compito diverso, nel senso che i giornalisti che hanno fatto un percorso di formazione a loro volta insegnano ai redattori, alle redattrici, le tecniche che servono per confezionare un programma, quindi insegniamo a tutti e a tutte dall'ideazione, da come si pensa, si progetta il programma, a come lo si realizza, a usare i programmi di montaggio, poi quelli di regia, a inserire le musiche, eccetera. Mentre il diritto di dire la propria opinione, di dire quel che pensa, questo è trasversale a tutta la redazione. Tu prima citavi la pandemia, abbiamo visto anche, sì, un aumento proprio appunto del disagio durante questo periodo. Sono tornati, diciamo, di attualità temi che spesso vengono rimossi dall'opinione pubblica, dai media, che è ad esempio il TSO. Che importanza, certo, ha fare informazione e riflessione appunto su questi temi? Ma secondo me ha un'importanza che non vale soltanto per le persone con un disturbo psichico, perché in realtà riflettere per esempio sul trattamento sanitario obbligatorio, sui modi di farlo, eccetera, è un discorso sulla democrazia, è un discorso sui corpi, vuol dire riflettere su che cosa è possibile, è giusto o non è giusto fare alle persone in generale. Il trattamento sanitario obbligatorio è stato applicato tante volte in modo violento. Noi abbiamo fatto dei servizi a volte anche veramente molto duri, quando è morto Mastro Giovanni, che è quello chiamato il maestro buono, ed è morto perché è stato, gli hanno fatto un TSO, poi è stato legato al letto e dimenticato a Vallo di Lucania, dimenticato per ore e ore e ore in un luglio caldissimo, ed è morto di sete e di fame, cioè è remoto abbandonato. Allora, questa è una cosa successa pochi anni fa, che ha potuto arrivare ad un giudizio solo perché le telecamere di sorveglianza hanno filmato tutto e perché delle associazioni e i parenti di quest'uomo, di questo maestro, hanno sporto denuncia e iniziato una campagna anche di opinione. Però la violenza istituzionale è presente ancora oggi, non è che sia finita, ed è una violenza che attraversa tanti tipi di istituzione, non soltanto quelle psichiatriche, solo che nel campo della salute mentale molto spesso le persone sono più deboli, sembra che abbiano meno diritti. Quindi fare un lavoro di informazione in questo campo, di nuovo, è qualcosa che non ha a che fare solo con questo campo, è riflettere sullo stato, sul benessere della democrazia in questo momento. Come il fatto che, per esempio, ancora oggi molti luoghi, la maggior parte insomma dei luoghi dove si curano le persone con disturbo psichico, ricorrano con frequenza all'abitudine, alla consuetudine di legare le persone, cioè la cosiddetta contenzione, no? In Emilia Romagna c'è un protocollo adesso che sta cercando di arrivare a contenzione zero, ed è bastato dover ogni volta segnalare che una persona veniva legata, chiedere permesso, cioè rendere la cosa non automatica, per vedere una diminuzione notevole di questa pratica. Peraltro pratica che viene usata anche nei confronti delle persone con handicap o delle persone anziane. Con il timore, si dice, che si facciano del male cadendo, vengono legati ai letti. Per esempio, tranquillizzare una persona agitata, molto agitata, tu puoi stare a parlare per ore e ore con questa persona, oppure puoi legarla, oppure puoi sedarla con una dose molto alta di psicofarmaci. La differenza è nella qualità, ciò che succede poi a questa persona, perché io mi ricordo che un nostro redattore un giorno raccontava che ha perso una settimana intera di vita perché non ricorda nulla di un ricovero dove lo hanno sedato ed è stato fuori coscienza, non ricorda nulla. E deve essere orribile pensare che non sai cosa ti è successo al tuo corpo. Un altro redattore che è stato, gli hanno fatto un TSO, lui aveva fatto una cosa di risposta clamorosa a un atto che sentiva un'invasione. Lui sentiva delle campane, le campane della sua chiesa, della chiesa erano molto vicine a casa sua, e lui la mattina veniva svegliato da uno scampanio enorme proprio, che, e lui lo sentiva come una violenza. Allora ha preso due casse, le ha messe sulla finestra e ha sparato musica a non pari volume, ma insomma un volume molto alto, per farla breve insomma poi hanno chiamato i vigili e gli hanno fatto un trattamento sanitario obbligatorio, il TSO, e anche lui è stato sedato in modo pesante. E lui diceva, un giorno mi diceva, io sono sicuro che se non fosse stata domenica, ci fosse stato un medico disponibile, che invece di dover correre a mangiare i tortellini o le tagliatelle, avesse avuto il tempo di sedersi vicino a me e chiedermi cosa mi stava succedendo e parlare con me, non saremmo dovuti ricorrere al trattamento sanitario obbligatorio. Ha a che fare con l'organizzazione dei servizi, quanta gente c'è, e ha a che fare con questo tema, come la pandemia di nuovo ha rivelato, che alcune scelte di mancato investimento nella sanità territoriale si sono dimostrate poi disastrose. Proprio su questo ti volevo chiedere una cosa, perché in occasione di questo 15° compleanno avete prodotto un documento che suona un po' come una sorta anche di manifesto, no? C'è il capitolo finale che è dedicato appunto agli obiettivi, ai temi per il futuro. Quali sono? I temi di psicoradio sono quelli che sono sempre stati, ma diciamo rinforzati come urgenza. Cercare di continuare a capire dove e come la legge 180 non viene applicata. Cioè la legge 180, la cosiddetta legge Basaglia, in realtà viene molto criticata. È uscito poco tempo fa un articolo sul Fatto Quotidiano che diceva, testuale titolo, la vera follia è stato chiudere i manicomi. Era un orribile articolo di continua presa in giro di persone con un disturbo psichico, continuava a dire che questa legge non aveva funzionato. In realtà questa legge in molte parti d'Italia non è stata applicata e quindi sono state chiuse le istituzioni, non sono state sostituite con un altro tipo di servizio che non fosse un servizio punitivo e reclusivo come era il manicomio, no? Quindi è difficile dire che una cosa funziona se non è stata realizzata. Sarebbe come aprire un padiglione di neonatologia e poi dopo non mettere le incubatrici, poi dice: guarda, non funziona questo padiglione, metti le incubatrici, cominci a vedere e poi dopo giudichiamo. La stessa cosa è successa per la legge. L'unica ricerca grossa che è stata fatta dall'Istituto Italiano di Epidemiologia Psichiatrica ha fatto qualche anno fa una mappa che noi abbiamo illustrato delle tante situazioni che non funzionano. Cioè, ci sono regioni, per esempio, dove in molte zone il disturbo psichico viene intercettato solo se si arriva al pronto soccorso. C'è un numero altissimo di persone il cui disturbo viene diagnosticato perché è arrivato al pronto soccorso. Se è arrivato al pronto soccorso vuol dire che o ha tentato di farsi del male o ha dato in escandescenza in modo clamoroso, mentre oggi tutti gli studi ci dicono che un disturbo intercettato all'inizio ha molte più possibilità di non diventare la tragedia che rovina la vita di una persona perché lo espelle dalla scuola, lo espelle dal lavoro, gli impedisce relazioni sociali. Quindi che cosa c'è che ancora c'è da fare per applicare davvero la legge 180 e poi le leggi che sono derivate in seguito? E c'è da fare ancora tanto. Per esempio, una sanità davvero distribuita sul territorio che intercetta, che conosce le persone. Basaglia lo diceva, guarda, nella trasmissione che va in onda questa settimana sentirete la voce di Basaglia che dice: io non credo che nessun tipo di cura, né psichiatrico né psicologico, possa funzionare in un luogo dove le persone sono chiuse e legate da chi dovrebbe curarle. Io non credo che possa funzionare se non c'è una vera relazione tra chi cura e chi è curato. Allora, questa cosa dove è stata realizzata? Ancora adesso ci sono luoghi che assomigliano molto, infatti stiamo facendo una puntata proprio su come i manicomi sono stati chiusi, la logica manicomiale, la cultura manicomiale, cioè l'idea che una persona, ancora adesso a me chiedono: ma dove stanno i redattori di Psicoradio? In che senso dove stanno? Sì, dove vivono? Ciascuno vive a casa sua. Ancora l'idea che se una persona ha un disturbo psichico deve vivere in un altro posto, deve essere chiuso in un posto. Questo quindi ci testimonia appunto che l'informazione e la cultura su questo, sul tema della salute mentale, è ancora importante. Psicoradio opera in questo settore. Io intanto ti ringrazio, Cristina, per appunto avercelo grazie raccontato. Grazie a voi di darci ospitalità e spazio. E ricordo appunto l'appuntamento sulle nostre frequenze la domenica alle ore 11 di Psicoradio. Ascoltate Psicoradio, scrivete a Psicoradio, vedrete che impariamo tutti tante cose. Anch'io continuo a imparare nonostante la mia non giovane età. Grazie mille. Grazie a voi.